Il punto di Stefano Folli. Se la politica è ormai solo uno spettacolo televisivo, uno show più o meno divertente, non c'è dubbio che ieri sera Berlusconi ha fatto la sua parte con la consueta grinta. È sulla scena da 20 anni, ma ancora una volta ha svolto il ruolo che meglio gli si addice, quello dell'istrione. Se vogliamo misurare il tutto con il metro dello share, dell'audience televisiva, la cosa ha funzionato. Se invece vogliamo guardare ai contenuti di quello che è stato detto dallo studio di Santoro, allora è meglio rassegnarsi. Risposte prolisse, argomenti risaputi, ovviamente nessuna autocritica e soprattutto un discorso quasi soltanto rivolto al passato in chiave autoassolutoria. Ma sappiamo, il personaggio Berlusconi è questo e la sua unicità, qualunque cosa si intenda con questa espressione, gli italiani non la scoprono certo oggi.